Jacopo Sala ha giocato nelle giovanili del Chelsea e poi ha avuto anche, secondo me, lì la fortuna, cioè quella che Frank Arnesen, ex grande giocatore della Danimarca, ha cambiato squadra, è andato via dal Chelsea ed è andato all'Amburgo e se l'è portato dietro. Se l'è portato dietro, lui al Chelsea non riusciva ad avere grande spazio, anche se era andato, ad esempio, in panchina l'ultima giornata di un anno nel quale il Chelsea ha vinto il titolo con Ancelotti alla guida. Ad Amburgo ha cominciato piano piano a conquistarsi il suo spazio, ha cominciato a esordire e ha giocato un paio di volte a partita in corso. La cosa curiosa è che venerdì sera l'abbiamo chiamato al telefono, anzi giovedì sera l'abbiamo chiamato al telefono per fargli in bocca al lupo, sapevamo che sarebbe stato titolare, il giorno dopo ha giocato contro il Bayern di Monaco, quindi non contro l'ultima, ecco, bravo, certo. E ha fatto gol, ha fatto un bel gol, un bel destro, un po' strozzato in diagonale. Ma soprattutto, e poi ovviamente l'abbiamo richiamato la notte stessa della partita, la personalità nell'alzare la mano per farsi vedere da Guerrero, e cioè nel proporsi, che credo sia stata, al di là poi del gesto tecnico del gol, l'altra cosa interessante, cioè un ragazzo che non ha paura, non va a nascondersi, non aspetta la palla ma fa capire che gliela devono passare e poi conclude così, sì, bene, quindi insomma, bella cosa. Il giovane di talento e di qualità è leggermente sfrontato, ovviamente senza esagerare, è certamente un valore aggiunto, sì, no? E sì, mi sì. Pare si possa dire questo anche per Borini, così sì, grande personalità. Grande personalità da parte di Borini, oltretutto in una città complessa, in una città non facile, e tra l'altro vivendo, perché un conto è inserirsi in qualcosa che già funziona e che tutto sommato ti aiuta, ma vivendo comunque una certa concorrenza con giocatori importantissimi, se non a tratti fondamentali come Totti, parlo di trio d'attacco, con un giocatore come Lamela che si inserisce in un trio d'attacco ed ha una grandissima tecnica e c'è una grandissima aspettativa su di lui, con un giocatore come Bojan che viene dal Barcellona e ha giocato con Leo Messi e tutti pensano che possa diventare un grande giocatore, e insomma, se la Roma ha mollato Borriello e se la Roma ha fatto delle valutazioni tenendo e difendendo Borini, io credo che Borini se lo meriti,